Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti. Bella impressione ha lasciato secondo me ieri sera l'Inter, che ha accettato la lotta corpo a corpo con una delle versioni più dignitose della stagione della Juventus. Partita rognosa per molti motivi, la Juve è partita forte, l'Inter poi ha messo in un angolo secondo me ogni pensiero di Coppa, e questo è un ulteriore merito, ed è entrata nella gara fino a meritare il successo finale. Vorrei fare due chiacchiere molto rapidamente con Aldo Serena, che ieri sera ha commentato la partita per Mediaset, che sta per rientrare in studio per l'unico anticipo di giornata, se non sbaglio. Grazie Aldo. Ciao a tutti. Inter che sta bene, chiude in crescendo come diverse volte è successo anche di recente. Sì, l'approccio alla gara forse non è dei migliori, perché parte sempre sottotono ma finisce con grande ritmo, non in tutti i suoi elementi. Alcuni elementi chiave secondo me, Milito, Schneider, non sono al top della condizione, stanno così subendo un po' le fatiche della lunga stagione e hanno perso un po' di lucidità. Senti, Zaccheroni si lamenta per il primo giallo a Sissoko, ma dovrebbe lamentarsi secondo me col suo giocatore, perché quando hai un giallo sulle spalle non entri in quel modo al 37esimo del primo tempo, secondo me. È vero che la prima ammonizione è stata un po' così di gestione, sì, un po' di gestione della gara. Sì, però hai detto bene, sulla seconda, poi in un pallone, sulla tre quarti, sull'esterno, capisco che se fosse stata in una condizione diversa, a ridosso dell'area di rigore, in contropiede, quasi una rete sicura, ecco, uno lì si fa prendere anche proprio dal tutto per tutto e cerca di fermare l'avversario. Lì poteva veramente accompagnarlo sull'esterno maggiormente, è stato proprio ingenuo, lì ha condizionato tutta la gara, perché la Juventus ha fatto un'ottima partita in alcuni elementi che non hanno brillato per tutta la stagione, e dico uno su tutti, Cannavaro. Verissimo. Che non ha fatto una grande stagione, ma ieri sera ha fatto una gran partita. Sì, sì, no, dignitosa la Juventus, l'ha messa sulla battaglia come l'unica cosa che poteva fare, no? Anche sul confronto fisico, una gara simile a quella giocata dalla Juventus all'andata, anche se in un contesto completamente diverso, no Aldo? Sì, con uno spirito giusto, quello da Juventus, rabbioso, grintoso, ma anche sotto il profilo tattico, finché è rimasta in 11, molto compatta, quadrata, ha cercato di muovere i tre davanti, Diego, Iaquinta e Del Piero, molto cercando di non dare punti di riferimento. Insomma, l'aveva impostata bene Zaccheroni, i suoi giocatori avevano risposto bene nella prima parte, poi però ecco, quell'ingenuità ha un po' cambiato tutto. Come immagini il derby di domani? Lo vedo con una Roma che ha tanta pressione addosso, anche perché la realtà è che con l'arrivo di Reia la Lazio ha trovato serenità, ha trovato punti, ha trovato anche un gioco di un certo tipo, quindi non è un avversario facile. Io credo che sulla Roma adesso pesino tanta pressione, alla luce anche poi dell'incontro che avrà fra una settimana contro la Sampdoria, che è in lotta per il quarto posto, e certo. Quindi secondo me, ecco, domenica prossima potremo forse sapere chi vincerà lo scudetto. Totti o non Toni o non Toni? Perché l'ultimo dubbio mi sembra questo: Vucinic e Totti giocano ovviamente, e poi oggi ovviamente Ranieri ha giocato con le carte, no? Ho provato tutti, forse gioca Toni, forse gioca Menez, forse gioca Taddei, lo metteresti o no? Ma io partirei forse Ranieri, un po' prudente, sì. E poi magari vedrei come si sviluppa la partita per mettere le tre punte. Per chiudere, Aldo, Barcellona come si fa? Come si gioca col Barcellona? In una partita secca si può sperare anche così, in un miracolo, in una situazione particolare, che Messi non sia al top della condizione, che il gioco di Guardiola non sia quello di sempre. In due partite la vedo molto difficile per l'Inter. Io penso che Mourinho abbia fatto le prove generali a Firenze di una copertura degli spazi maggiore, di una squadra forse più prudente, che possa arrivare anche allo 0-0 a San Siro per poi andare lì e giocarsi tutto sperando di fare qualche rete. Aldo, grazie, buon lavoro. Anche a te, ciao a tutti. Grazie davvero Aldo Serena. Se volete intervenire, io credo di sì, oggi giornata molto interessante, 800 24 00 24, il numero verde messaggi 349 238 6666. Ranieri ha già parlato nel primissimo pomeriggio, Reia invece deve ancora affrontare, credo lo farà tra poco, la sua conferenza stampa. Vi lascio immaginare come è stata quella di Ranieri, poi vi faccio sentire anche un paio di di estratti un paio di brani, catenaccio se ce n'è uno. La Lazio è favorita per il derby perché in ogni derby la squadra favorita è quella che parte di rincorsa, quella che parte indietro in classifica. L'ha detto Ranieri, non lo dico io. Come detto, se ne parlava prima con Aldo Serena, gli attaccanti li ho provati tutti. Vucinic ovviamente non si tocca perché è il più in forma. Totti, chi lo leva da una partita come questa, neanche col fucile, e quindi resta un posto, forse Toni, che è comunque campione del mondo, grande esperienza di queste partite, forse Menez e la sua freschezza, la sua abilità nel saltare l'uomo, forse Taddei. Ranieri lascia tutti i dubbi del caso. Ho già parlato anche Leonardo. Questa è un'altra vicenda che mi interessa e mi interesserebbe anche sapere e conoscere il vostro pensiero, perché io sono, nonostante la smentita che è arrivata naturalmente sulla storia della rescissione del contratto, sarei portato a credere, per la fonte da cui è arrivata ieri questa notizia, cioè il sito internet di Mediaset a firma di Carlo Pellegatti, sarei grosso modo portato a credere alla veridicità della versione fornita dall'organo Mediaset, cioè su effettivamente sulla fine di un matrimonio tra Leonardo e il Milan, anche se la smentita è arrivata puntuale con toni molto decisi da parte di Leonardo. Ma secondo me saranno le ultime partite di Leo sulla panchina del Milan, e poi probabilmente Leonardo ha visto altre chance professionali che più lo interessano e lo intrigano. Tra l'altro, spaziando un po' a tutto campo, anche qui poi ne parliamo con maggiore calma sentendo anche delle voci, c'è stata questa mattina, e sarà un altro dei temi del weekend, c'è stata questa mattina, sono state le prove che hanno disegnato la griglia di partenza a Shanghai per il Gran Premio della Cina. Le Red Bull si confermano le macchine da battere, pole position perfette, accanto a lui il compagno di squadra Mark Webber. Ma le Ferrari questa volta sono un po' più vicine rispetto all'ultima gara, perché Alonso partirà con il terzo tempo, quindi in seconda fila, tallonando subito le Red Bull. Accanto ad Alonso Nico Rosberg, che insomma, notizione, ormai la prima guida della Mercedes stando ai primi Gran Premi stagionali, anche perché Schumacher è ancora parecchio indietro, quinta fila per Michael Schumacher. In terza fila Button ed Hamilton, quarta fila per Massa e Kubica, quinta appunto per Michael Schumacher e Sutil, in sesta fila Barrichello e Alguersuari. Quindi Buemi, Petrov, Kobayashi, Hülkenberg, De La Rosa, Liuzzi, molto indietro Liuzzi con la Force India. E in decima fila troviamo, quindi col ventesimo tempo, troviamo anche Jarno Trulli. Questo è il risultato delle prove della Cina. Oggi è weekend, è sabato di derby. Quello di Barcellona lo vedremo stasera alle 20, con particolare attenzione all'ultima esibizione dei Blaugrana prima di volare a Milano. Un altro invece si è giocato, quello di Manchester. Sentite questa che è carina. Vedo già Andrea da Padova in linea, primo ascoltatore, ma sentite questa che è carina. Ovviamente Scholes decide il derby di Manchester, chi se non lui segna Scholes al 93esimo minuto, e dunque lo United si porta un punto solo dal Chelsea, che giocherà tra un'oretta. Però l'arbitro di questa partita, che è un refrain di questi giorni, di questo weekend drammatico per i volieri, tanto che anche lo stesso Siena, leggevo prima un'agenzia, ha avuto sta avendo le sue belle difficoltà nel raggiungere con altri mezzi Catania. Ebbene, la partita è stata arbitrata da Martin Atkinson, che è stato chiamato arbitro, che è stato di riserva, è stato chiamato all'ultimo momento, perché quello designato era Steve Bennett, che però è dovuto rimanere in Romania, dove si trovava. Perché i voli non c'erano, i voli erano stati cancellati. Ma dicevo, weekend di derby anche in altri settori. È appena finito quello bellissimo per il nostro tennis di Barcellona, con Francesca Schiavone che ha battuto Roberta Vinci in 2 set nella finale, punteggio netto 6-1, 6-1. Adesso traffico, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori, vi faccio sentire un po' di voci da vigilia, compreso Leonardo, che vedo in questo momento parlare sugli schermi. Comincerei con grande piacere a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Andrea da Padova e poi Dario da Monza. Buonasera Andrea. Buonasera Carlo. Buonasera. Volevo parlare in merito di Leonardo del Milan. Sì. Magari pensavo che di sentire anche prima l'intervento di quest'oggi. Glielo faccio sentire al volo. Eccolo. Grazie qui. Mille. Leonardo, glielo faccio sentire subito, così poi ne parliamo con calma. Ragione. Tutte le cose nascono un po'. Tutta un po' così, no? Allora, anche ieri, sinceramente, quando è uscita la notizia che avevo reciso il contratto con il Milan, io, a primo impatto, pensavo, ma cosa devo smentire? Perché le cose non è possibile, perché io ho reciso il contratto, sono qui a Milanella a preparare un allenamento, c'è la partita domenica, vuol dire, smentire mi sembrava una cosa un po' fuori, no? Dopo, anche sinceramente, pensando a voi, delle persone che sono lì a cercare qual è la notizia e giorno dopo rischiare di scrivere una cosa che non è vera, nel senso, allora per la prima volta ho cercato di smentire, perché non mi piacciono queste smentite, cose, giri, sai, non mi piacciono, telefonate, a me non piacciono, le cose sono il contatto che ho con voi è questo qua, è solo qui, solo conferenze stampa prima di una gara e dopo la gara ne parlo con voi, è l'unico contatto che ho, non c'è un altro, come lo sapete, non sono telefonate, sms, incontri, non ci sono, solo questo. Allora, questo è il momento che ho di spiegarvi. Per la prima volta ho fatto uscire questa cosa dicendo che rescissione di contratto non c'è stata, quindi ho avuto, però tutto il resto non c'è niente da chiarire, e, sinceramente, cosa devo dire? Non devo dire niente, la mia situazione oggi è uguale del 1° luglio del 2009. Credeteci se volete, questo era Leonardo. Andrea, lei che dice? Eccezionale Leonardo. Sì, mi ricorda tantissimo la situazione di sempre dello stesso periodo dell'anno scorso con Ancelotti, sì, Kakà, sì, e quant'altro. Ancelotti è iniziata, non è iniziata vorrei, a novembre. Non vorrei che Leonardo stesse Leonardo parla di oggi e basta. Galliani e il presidente parlano di ieri, perché continuiamo a parlare di quello che abbiamo vinto nel passato, di quanto forti siamo stati. Di domani ne parlano sempre tutti molto poco. Sì, è vero. Dispiace perché adesso si era parlato molto della linea Under 23, poi vedo che probabilmente verrà confermato Mancini al Milan. Abbiamo già proposto a Beckham di fare un altro anno con noi. La linea tutto è questa, un po' rinviato all'anno del mai. Penso che si siano state perse dopo la vittoria dell'ultima Champions tante occasioni per fare una bella... A me rifondazione neanche a me come termine piaceva, però un rinnovamento della squadra sì. Non abbiamo ancora trovato un sostituto per Nesta in 5, 6, 7 anni che ormai è al Milan. E poi soprattutto arriverà Yepes, no? Che mi sembra una scelta in linea con questa politica. E mi sa che questo è il mio timore più grande, che il patto assente di questo ultimo periodo sia un patto che non può giocare, perché se si fa male non lo si vende più. La sua analisi è un po' amara, però la condivido, insomma non ci sono segnali diversi rispetto a di inversione rispetto a questo, a questa politica societaria che è stata inaugurata dall'anno scorso, io direi, quindi non vedo inversioni di tendenza, tanto che io sento parlare di Balotelli al Milan, di contatti tra Galliani e Raiola eccetera, ma quello sì che sarebbe davvero sorprendente, perché quella sì sarebbe una colossale inversione di tendenza, detto che ho i miei dubbi che l'Inter accetterebbe di cedere Balotelli al Milan, però ammesso e non concesso, ci vuole un bel pacco di quattrini e non ci sono segnali che indicano che questa proprietà ha voglia di investire tale pacco di quattrini nel calcio, semplicemente questo. Quanto a Leonardo, ripeto la mia idea, se consideriamo la fonte da cui è uscita la notizia, ripeto, sito internet di Mediaset, firma di Carlo Pelegatti, che nell'ambiente rossonero, beh, ce ne sono pochi così di colleghi così addentro alle cose rossonere, questo mi porta a credere che la notizia abbia un certo fondamento. Come e da dove esca non lo so e francamente mi interessa poco, però io ci credo, detto questo. Sta parlando Mazzarri, vedo su Sky, cioè giorno di conferenza stampa. Vediamo. Protagonista della rimonta cominciata ad ottobre. Un pensiero in più per Mazzarri, orientato a schierare in difesa dal primo minuto Rinaldo, Grave e soprattutto Santa Croce. No, questa è un'anticipazione. Mazzarri ha già parlato nel corso del servizio. Allora, io, Andrea da Padova c'è? C'è? Andrea? No, Dario. Toccava a Dario. Pronto. Dario, buonasera. Dario da Monza, però. Dario da Monza, benissimo. non era Andrea da Padova. Io chiamavo riguardo la partita di ieri sera di Inter-Juve, sì, che sinceramente ho visto, sono tifoso interista e l'Inter mi è piaciuta molto. Abbiamo giocato secondo me bene, potevamo fargli molto più gol di quelli, che in realtà è finito 2-0 chiudendo al 47. Sì. Ma io chiamavo per chiederle un parere. Dopo la partita, girando sui vari canali, veniva descritta un Inter sulle ginocchia, senza idee, in una condizione quasi tragica, aspettando il Barcellona. Ma io, ma francamente, Dario, io quest'Inter sulle ginocchia io non l'ho vista nell'ultimo periodo. Io l'ho vista, mi è piaciuta molto. L'espulsione, secondo me, della Juve c'era, era sacrosanta. Sì, guardi Dario, su quell'espulsione discutiamo sul primo giallo, ma è stato un giallo di gestione della partita, perché ho avuto l'impressione che D'Amato all'inizio sia andato piano con i cartellini, con molti richiami. Magari un cartellino un po' prima andava speso proprio per calmare una partita che ovviamente era circondata da un sacco di tensione. In quel momento è arrivato con due cartellini di gestione su Motta e Sissoko, che si sono spintonati. Quante volte abbiamo visto giallo, poi si può discutere sul fatto questo ha allungato le mani prima, quell'altro dopo, questo di più, quell'altro di meno. La verità è che un giocatore di livello già ammonito, a torto o a ragione, non va a fare un'entrata di quel tipo al 37esimo del primo tempo. Questo è il vero punto, no? Sì, sì, ma poi tra l'altro la stessa ammonizione è stata data a Motta, quindi c'è stata una parità assoluta, sì, di trattamento. Ma quindi il mio parere, quello che volevo sapere da lei è cosa ne pensasse sulle possibilità dell'Inter per martedì. Guarda, era questo il vero punto della stagione. Solo? Mi chiede solo questo? Domanda facile, Domanda facilissima. No, non, sinceramente io non vedo come il Barcellona possa essere attaccato, dico la verità. Possiamo discutere sulla abilità dell'Inter in Europa in quest'ultimo periodo, mi rifaggio soprattutto alle partite con il Chelsea, all'abilità dell'Inter nel far giocare male l'avversaria diretta, soprattutto nella gara di Londra. Ho avuto l'impressione che l'Inter ha giocato una grande partita, al Chelsea no. È stata brava l'Inter a non dare al Chelsea i suoi ritmi di partita e le sue strategie, le sue corsie preferenziali. Io il Barcellona in questo momento, dico la verità, non lo vedo attaccabile. Immagino una gara molto tattica, anche bruttarella, martedì sera a San Siro, a meno che non salti fuori un gol nei primissimi minuti, che magari potrebbe cambiare l'inerzia della gara. Credo che lo 0-0 sarebbe un ottimo risultato per l'Inter, e poi si va a Barcellona a vedere un po' cosa succede, con l'idea di riuscire a fare un gol, e magari si può anche fare, perché si può trovare una pecca nel Barcellona, che non è blindatissimo dietro, ma col gioco che fa sarebbe impossibile domandare anche quest'altra caratteristica. Non, però francamente non lo vedo attaccabile oggi il Barcellona, sarebbe un'impresa davvero colossale eliminare questo Barcellona in questo momento dell'anno, dico la verità. Dunque tocca a Cristian, Pisa, buonasera. Buonasera signor Genta. Una domanda, ho sentito oggi in merito alla partita di ieri sera Inter-Juventus, sì, un'intervista a Chiellini dove si lamentava dei continui trattenuti da parte dei giocatori dell'Inter, quando a mio parere lui è uno dei giocatori più bravi in difesa della Juve, ma più fallosi in assoluto. Io non so come faccio sempre a lamentarsi in questo modo. Ma sappiamo la lamentela fa parte del mestiere, no? Fa parte di questo gioco, perché io sono abituato a leggere la partita per come le vedo, al di là di singoli micro episodi. Non mi piace la polverizzazione delle partite in mille episodi arbitrali o anche tecnici. Ieri sera ho visto una Juventus che ha approcciato benissimo la partita, un Inter un po' così all'inizio, come spesso è capitato in questa stagione, soprattutto in questo scorcio della stagione. Vuoi pensieri di Barcellona, pensieri di Coppa, pensieri di quello che volete voi, non lo so nemmeno io. La Juventus ha però approcciato meglio la partita con grande vigore, ripeto, è stata una delle versioni più dignitose della stagione della Juventus. Grande vigore fisico da parte della Juve, messa bene in campo da Zaccheroni. L'Inter però nella partita a un certo punto ha deciso di entrare, poi c'è stata, prima dell'espulsione di Sissoko, ha deciso di accettare, mi è sembrato così, il confronto fisico con la Juventus, e da lì è venuta fuori una partita tecnicamente non bella, però di grande contenuto, di grande spessore, di grande tensione anche. Poi complice l'espulsione di Sissoko, l'Inter è cresciuta e francamente nel secondo tempo si era lì un po' tutti ad aspettare il gol che è arrivato alla mezz'ora, no? La sensazione che ha trasmesso questa partita è stata quella che ho detto, compreso il fatto di un Inter che di nuovo ha dato un'ulteriore dimostrazione di tenuta fisica, perché l'impressione è che abbia ancora benzina nel serbatoio, ma io questo dubbio non ce l'ho mai avuto guardando le ultime uscite dell'Inter, compresa la partita persa a Roma. Ezio, Napoli, buonasera. Pronto? Pronto, dica. Mi chiamo Ezio, chiamo da Napoli. Sì. È una domanda un po' banale. Volevo domandare, ma se l'Inter perde il campionato, ammettiamo, che fine fa? Che fine fa? Ezio, non ho capito. Che fine fa chi? Non ho proprio afferrato. L'Inter perde il campionato, insomma, l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter in questo momento è un boomerang scritto con due parole, ed ha detto proprio Mourinho, zero titoli, perché il rischio è serio, il rischio è grosso, perché il campionato è ancora lì da vedere, e credo che questa sia, se non la giornata decisiva, quasi, ecco, perché sono molto curioso di vedere domani la risposta della Roma nel derby. Roma che mi è piaciuta così, vi dico la verità, nelle ultime due partite, a Bari, con un Bari che mi pare un po' appagato, un po' demotivato, e con l'Atalanta la Roma ha avuto la fortuna e il merito di trovare il gol dopo un pugno di minuti, dopo 12 minuti, su una papera piuttosto colossale di Calderoni, bravissimo portiere atalantino, però quel tiro di Vucic era davvero parabilissimo come minimo, no? E Roma ha trovato quel gol e da lì la partita si è messa in discesa, ma non mi ha fatto un'impressione pazzesca in quella partita a Roma. Sono molto curioso di vedere domani la Roma con tantissima pressione sulle spalle, con una Lazio che ha davanti la partita quasi per salvare la stagione, no? Perché con adesso la classifica è quasi a posto. Dovesse anche vincere il derby e togliere lo scudetto ai cugini, beh, tombola in casa laziale, io direi. Quindi sarà una partita, veramente la partita della verità per la Roma, io credo. Tanto vengo invitato a togliermi le bende nero-azzurre dagli occhi. Si ricordi la deontologia, Sergio da Como? Non sono interista, semplicemente questo è il mio pensiero sul calcio, e lo dico, non me ne frega niente, datemi pure da interista, non è così, ma non mi importa, non mi pesa. Questo è il mio pensiero su come sta andando la stagione dell'Inter. Scoperto il mistero di Ezio, che fine fa? È andata via la comunicazione, che fine fa Mourinho? Secondo me Mourinho andrà via dall'Inter alla fine di questa stagione. Non, è soltanto una sensazione, mentre per Leonardo ho qualche elemento in più per pensarlo, ha ragione, e gli ho detti prima gli elementi, quali sono gli elementi di prova. Per Mourinho è soltanto questa sensazione. Ha ragione invece Max da Udine, che scrive: il Barcellona lo si doveva eliminare a fine novembre, questa è la grande colpa dell'Inter. Bravo Max, questo è un rilievo molto corretto. L'Inter non ha giocato quella partita come doveva fare una squadra che vuole vincere la Champions League, che guarda un po' avanti, perché quella partita di Barcellona è stata nel complesso come atteggiamento la peggiore della stagione dell'Inter, secondo me. 349-238-6666 per i vostri messaggi, telefonate 800-24-0024. Adesso vi faccio sentire come Ranieri vive il derby di Roma. Beh, bello, perché già venire a Roma e non è facile, perché a casa tua se va bene non esci, se va male non esci, per cui non esci. E queste però sono emozioni positive, no? E questo è molto bello. Esci di casa, insomma, ci ride sopra. Vedo Reia in diretta con Sky. Sposeria entrando giovedì nella partita di allenamento giù a Formello, perché si è girato e ha fatto un cenno, vuol dire, non so, come l'atleta, come l'ha vissuta, e quindi di conseguenza le sue emozioni e quello che lei sente dentro alla vigilia di questo. Beh, il derby romano l'ho sempre seguito con grande simpatia e interesse, ma anche negli anni precedenti, perché c'era un colore, una cornice direi straordinaria, con dei colori all'Olimpico bellissimi, e poi adesso viverlo da di dentro è chiaro che è un'emozione fortissima, un'attesa che non... io vorrei che la partita fosse fra un'ora, perché è un'attesa difficile, insomma, vorrei che passasse il tempo velocemente, ma così, così non è. Giocheremo domani, dopo aver visto tutte le altre partite, giocheremo alle 6:30. E niente, aspettiamo questo evento con trepidazione, con emozione sicuramente, sempre consapevoli che le due squadre stanno attraversando un momento particolare di forma. La Roma poi ha 23 utili, risultati utili che fa, noi stiamo venendo un periodo abbastanza buono e pertanto attendiamo questa sfida, questo derby, cerchiamo di viverlo possibilmente con serenità, con tranquillità, perché il nervosismo gioca brutti scherzi e questo non deve succedere nel mio gruppo. Così è Di Reia. Questa invece la sua vigilia, abbiamo preso al volo in diretta da Formello, è Di Reia, subito dopo le emozioni di Ranieri. Ma al di là delle emozioni, nostro uomo del sabato, Giovanni Capuano, chi lo gioca questo derby? Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora, diciamo che ha qualche certezza in più Reia, perché in realtà ad oggi ha un unico ballottaggio, che è quello tra Zárate e Rocchi come partner d'attacco di Flocari. Il modulo però che ha provato un po' tutta la settimana, oggi l'allenamento si è svolto con delle prove tattiche, non c'è stata la partitella, quindi non ci sono state ulteriori indicazioni, però diciamo che il modulo provato in settimana è tra l'altro il modulo che sta dando soddisfazioni a Reia in questo periodo, è il 3-5-2, e quindi ci sono due punte, Floccari è inamovibile, è difficile pensare che Rocchi parta dalla panchina, quindi è favorito su Zárate. E l'altra buona notizia è che ha recuperato pienamente Radu e quindi si è ricomposto il terzetto titolare di difesa con Diaz e Stendardo. C'è Ledesma, domenica scorsa la Lazio ha evitato il problema delle diffide, quindi non ha squalificati, arriva pulita questa partita e senza problemi. Per quanto riguarda la Roma, oggi Ranieri, al di là delle emozioni, lo ha ammesso chiaramente che in settimana ha un po' mischiato le carte anche per evitare che qualcuno fosse in grado di interpretare correttamente il suo pensiero. Ha detto: io ho provato due tipi di formazione proprio per cercare di confondere un po' le acque, e oggi tra l'altro si è più che altro limitato a fare mozione di sentimenti, perché in realtà ha dato pochi indizi di quella che sarà la formazione di domani. L'unico su cui si è espresso direttamente, Totti, ha ottenuto il via libera, ha detto Totti sta sempre meglio e è difficile pensare a un derby senza il capitano in campo direttamente. Diciamo che difficilmente la Roma giocherà col tridente, quindi con Toni, Totti e Vucinic contemporaneamente dal primo minuto in campo, c'è anche Menez, e quindi è ipotizzabile un tridente con almeno un giocatore leggermente più difensivo, sì, se così si può definire Taddei, esattamente, e con Perrotta ad aiutare poi i due mediani di centrocampo, De Rossi e Pizarro, in modo da evitare alla Roma l'inferiorità numerica, perché la Lazio a metà campo fa tanto affollamento con cinque uomini, e quindi, e tra l'altro con Rocchi che è anche disponibile abbastanza al ripiegamento, e quindi per Ranieri ci sarebbe il rischio di trovarsi invischiato in una partita in cui non ha il controllo del centrocampo. Giovanni, invece, quanto alle altre, domani è una giornata decisiva non solo per la lotta a scudetto ma anche per chi sta dietro, perché con la Juve che si è fermata ci sono Palermo e Sampdoria che hanno, non dico un match ball, ma quasi. Il Palermo va a Cagliari, la Sampdoria invece ha una partita piena di significati con il Milan per l'ultimo treno, la Sampdoria per un'Europa maggiore cui crede sempre di più, e poi c'è il Napoli che anche lì si gioca come il Milan le ultime carte a Bari. Com'è questo miscuglio? Partiamo dal Napoli. Mazzarri si è detto fiducioso, in realtà calendario e classifica in questo momento lo tengono abbastanza lontano dal quarto posto, ha tanti assenti perché ci sono tre squalificati, Quagliarella, Cannavaro e Aronica, c'è Maggio che è stato operato ed è indisponibile e ne ha 11 da mandare in campo, si affida alla qualità del suo tridente offensivo, Hamsik, Lavezzi, che saranno supportati da Dennis, sa che può soltanto vincere, e dal punto di vista certamente del carattere, questo può essere un vantaggio. Ha qualche problemino anche il Palermo, che è la squadra che è davvero al match point in questo momento, perché andando a più 6 sulla Juventus in realtà andrebbe a più 7, perché gli scontri diretti favorevoli, e con 4 turni da giocare ancora, lo dicevano ieri sera anche alcuni giocatori della Juventus dopo la partita, in realtà diventerebbe davvero difficile andare a riprendere il Palermo. Il Palermo ha problemi soprattutto a centrocampo, non tanto sui 4 titolari che saranno Nocerino, Liverani, Migliaccio e Pastore, quanto sulle alternative, perché c'è soltanto Bertolo in panchina, tutti gli altri in quel ruolo, a partire da Bresciano e Simplicio, sono out, così come out Bovo, e in difesa gioca Gojan. Sampdoria-Milan ovviamente vale un discorso a sé. La Sampdoria non ha grossi problemi di formazione, bene o male la formazione è quella che in queste ultime settimane ha riportato Del Neri a contatto con la zona Champions. Davanti ci sono Cassano e Pazzini, attenzione però perché tutti e due sono diffidati, e domenica prossima c'è Roma-Sampdoria, che è un altro incrocio di quelli da non perdere. Il Milan, al di là dei discorsi su Leonardo, oggi Leonardo ha avuto la certezza di aver perso Favalli e Flamini, che non ci sono, non sono nemmeno stati convocati, non c'è neanche Pirlo, che è squalificato, quindi ha qualche problemino in difesa. Gli sono tornati disponibili Bonera, Jankulowski e Calazze. Diciamo che il primo andrà a fare il titolare insieme a Thiago Silva e gli altri due si accomoderanno in panchina, soprattutto Jankulowski, perché in realtà le alternative sulle due fasce con Zambrotta e Abate ci sono. Giovanni, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi vorrei chiederti un ultimo spunto sul sabato di lavoro dell'Inter in vista Barcellona. Come è uscita l'Inter dalla partita di ieri sera, che è stata molto dura e molto fisica, oggi c'è stato super lavoro per i nerazzurri. Come sta l'Inter? Allora, Giovanni Capuano, per chiudere la nostra chiacchierata, come sta l'Inter dopo la Juventus e in prospettiva Barça? Allora, oggi è stata una giornata intensa di lavoro ad Appiano Gentile, un po' come di consueto Mourinho ha diviso la squadra in due, cioè chi ha giocato ieri si è dedicato più a un lavoro leggero di recupero, chi ieri non ha giocato ha fatto un allenamento completo. La buona notizia è che di fatto si sono allenati tutti, a parte Toldo e Santon, che sono gli unici due certi di non essere disponibili per la gara contro la Champions. L'altra buona notizia è che soprattutto a metà campo non ci sono problemi, anzi ieri sera, con una scelta più legata alla contingenza, di fatto Mourinho ha risparmiato anche 45 minuti di gioco a Thiago Motta, che è favorito nel ballottaggio con Stankovic per la gara di martedì sera. L'altro ballottaggio è quello davanti, perché Pandev non ha per niente convinto, Balotelli ha giocato in maniera un po' discontinua, ma è piaciuto di più, è sembrato più in palla, più fresco, e quindi diciamo che Mourinho ci sta pensando, anche se in realtà nelle ultime settimane le sue scelte sono abbastanza bloccate, cioè l'Inter sta giocando con una rosa ristrettissima di 14, al massimo 15 giocatori, su quelli Mourinho fa affidamento e con quelli pare deciso a giocarsi tutta la stagione. I fari sono accesi soprattutto sulle condizioni di chi è parso ieri un po' acciaccato, in particolare Sneijder, che evidentemente non si è ancora del tutto ripreso dall'infortunio alla caviglia. Ieri tra l'altro caviglia che è stata massaggiata abbondantemente dai giocatori della Juventus, è stata certamente quella la parte più fisica dei 90 minuti di ieri sera. A un certo punto Mourinho ha anche preferito togliere l'olandese, che in questo momento certamente non è nelle condizioni di qualche settimana fa, ma questo è umano. Ma a occhio, devo dirti la verità, ha anche dato l'impressione di essere un giocatore un po' in difficoltà, sì, nel muovere, nel correre, quasi che si fosse rassegnato a convivere in queste settimane con il dolore alla caviglia, e questo può essere un problema. Io non mi stupirei ad esempio se sabato prossimo contro l'Atalanta Sneijder fosse concesso un turno intero, sì, di riposo tra le due partite con il Barcellona, perché l'olandese è evidentemente imprescindibile nelle due partite di Champions, lo sarebbe anche nella volata scudetto, ma insomma se c'è da sacrificare qualcosa è possibile che sia la gara contro l'Atalanta. Ieri sera non si poteva pensare di lasciarlo fuori, però Mourinho appena si è accorto che qualcosa non andava, non ha avuto problemi a toglierlo, certo, cosa che quest'anno ha fatto pochissimo, quindi direi che questo è abbastanza indicativo. Domani l'Inter si allena ancora, poi ci sarà lunedì l'ultima rifinitura alle 16, dopo Mourinho parlerà, perché con il regolamento UEFA non può esimersi dal farlo, quindi ne sapremo di più. Io sono anche curioso di capire come arriverà il Barcellona-Milano, visto che i cieli sono chiusi, il Barcellona gioca stasera, quindi o parte poi in treno oppure dovranno inventarsi qualcosa. Arrivano tutti in macchina, Giovanni, fanno il serpentone da Barcellona. No, ma ci informeremo. Grazie a Giovanni Capuano, ma il problema è reale, perché... No, ma difatti non è una battuta, perché il problema è reale. Abbiamo appena sentito che gli aeroporti sono chiusi almeno fino a lunedì mattina, e il Barcellona proprio lunedì mattina dovrebbe mettersi in moto per arrivare a Milano. Insomma, le squadre hanno bisogno di tempi per arrivare a acclimatarsi, prendere contatto col terreno di gioco. Non è così facile pensare di organizzare una trasferta con mezzi alternativi da Barcellona e arrivare poi a Milano in condizioni che siano perfette. Certo, grazie Giovanni, alla prossima, grazie, buon lavoro. Io torno a parlare con gli ascoltatori, oggi sono moltissimi, non riuscirò a parlare con tutti, ma domani siamo qui dalle 5 alle 7, dunque spazio per chi vuole intervenire. Intanto oggi Nino da Latina, Amerighi da Grosseto e Daniele da Pistoia. Nino, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo solo fare due considerazioni, una sulla partita di ieri sera, che se l'arbitro avesse immediatamente espulso Melo sul fallo che ha fatto al giocatore dell'Inter, probabilmente non ci sarebbe stata poi le conseguenze dei gialli, perché Melo non è nuovo a queste cose, ma ritengo che tutti i giocatori che si comportano in questo modo dovrebbero essere espulsi, perché sono falli che possono rovinare la carriera di un giocatore. Juventino, sono d'accordo, però al di là dello scomporre la partita in tanti episodi, la sensazione è che l'arbitro all'inizio abbia provato a tenere la partita in mano senza usare i cartellini. Nel momento in cui era evidente che questo non poteva essere fatto, allora ha alzato quei due cartellini di gestione dopo un fallo molto duro al centrocampo verso due giocatori che si erano messi le mani addosso senza nemmeno particolare animosità, in realtà Thiago Motta e Sissoko, però hanno cartellini di gestione della gara. Secondo me il vero problema è che un giocatore di livello, torno a ripetere, ammonito, non va ad entrare in quel modo su Zanetti. Quella è stata la fesseria, poi Zaccheroni se la può anche pigliare con l'arbitro, anche Chiellini, però io me la piglierei con Sissoko, perché un fallo così non lo devi fare. Infatti Zaccheroni subito dopo il giallo si è girato verso la sua panchina e ha detto: questo lo teniamo o lo teniamo in campo o lo leviamo, perché Sissoko non è nuovo a questi raptus agonistici. Prego. Ecco, la seconda considerazione invece è che sarebbe opportuno che gli arbitri prendessero veramente provvedimenti nei confronti della lotta libera in area. Non è più concepibile che si possano vedere certi atteggiamenti, difensori, attaccanti, maglie che si strappano, che si alzano. Credo che sia questa una delle cose che portano anche ad allontanarci dal calcio. Vorrei solo ricordare, un attimo solo faccio una considerazione, nel lontano Cagliari-Juventus, Juventus all'inseguimento, a Torino, un certo Lobello dette un rigore a favore di Riva con palla fuori dall'area sull'angolo sinistro della Juventus, solo nel momento in cui il giocatore stava facendo un centro in aria, il difensore aveva già fatto il fallo e Lobello già l'aveva punito. Vedo che lei è un osservatore molto attento delle questioni dinamiche arbitrali, io lo sono enormemente meno, quindi si figuri un po' se mi ricordo certi dettagli. Io mi ricordo invece quello ben più noto della crocifissione di Byron Moreno per un fallo dato contro, per un rigore dato contro l'Italia, che tutti ci ricordiamo in quella famosissima partita, e tutti dire: ah, questo qui comprato di qui, venduto di là. Semplicemente poi sul fronte internazionale sono nodi che vengono al pettine, quindi questo è indubbio. Amerighi, buonasera. No, buonasera lo stesso, comunque ci sentiamo magari domani. Daniele da Pistoia, salve. Pronto, dica. Buonasera. Allora, intanto i complimenti non ve li faccio, ve li fanno tutti. Grazie. Dunque, grazie lo stesso. Allora, due piccole considerazioni. La prima è una battuta, rispondo all'ascoltatore di prima di Pisa, sì, che si lamentava del comportamento di Chiellini. Chiellini è un livornese, ci sta che lui si prendesse proprio con lui. Presa questa che ci sta ed è buona. Benissimo. Allora, io consideravo semplicemente, da tanto che non vedevo una partita della Juve, tanto più Juve-Inter, sono juventino. Allora, considero Diego fondamentalmente un flop, vabbè, questo si può dire Lady, ma io non sono mica convinto che sia un flop. Dice io, no. Non io sono ho visto convinto. La partita ieri sera, non mi è sembrato assolutamente un giocatore che possa influire positivamente sul gioco della Juve. Primo perché l'unico passaggio che ha dato in Daniele, però mi fa dire una cosa. Prego. In questa Juventus non riuscirebbe ad influire neanche Zidane. Mi vengono in mente anche nomi molto più illustri che magari col calcio non c'entrano, però in questa Juventus, mi creda, chi può influire? È una squadra che gioca con il mondo sulle spalle, con la contestazione da una parte all'altra ancora. Mi creda, è molto difficile giocare in questa Juventus. Poi mi dicono, vabbè, i giocatori li vedi che sono tesi, ma come potrebbe essere altrimenti? Pronto? Dica. Sì, no, dicevo, vedo in questo giocatore tutte quelle qualità che non vedo in questo giocatore tutte quelle qualità che avevo pensato da avesse all'inizio stagione con l'acquisto che c'è stato, insomma, ha speso dei soldi. No, ma certamente, ma è chiaro che Diego esce da questa stagione come oggetto misterioso, però io non credo che sia un flop, credo che sia non un campione, perché i campioni alla sua età sono già un'altra cosa, credo che però che sia un ottimo giocatore che in un contesto che magari non di eccelsa personalità, questo probabilmente no, anzi certamente no, però credo che sia un eccellente giocatore che è messo in una squadra che funziona con un ruolo ben definito, e in questa Juventus francamente Diego è stato fatto ballare da un ruolo all'altro, da una posizione all'altra del campo, era molto difficile combinare più del pochissimo che di fatto ha messo insieme, però non credo che sia un flop, è stato strapagato e questo è vero. Sarei curioso di avere una riprova sul valore di questo giocatore. Non credo, ripeto, che sia un bidone nero come appare al termine di questa sua prima annata bianconera, e non credo neanche che possa essere ceduto realisticamente, perché vorrebbe dire smenarci un mucchio di quattrini. Io vorrei lasciare la chiusura del programma di oggi alla cronaca, che è risultati di Serie B e poi anche rugby, però che oggi c'era nel campionato italiano di rugby una partita chiave, c'era l'Inter-Roma del campionato di rugby. Però prima i risultati di B, che sono tutti finali, sono questi: Ascoli che vince 2-1 ad Ancona, Cittadella batte Triestina 2-0, e prima un ascoltatore scriveva Cittadella il sogno continua, e continua altro che. Cittadella 57 punti, in questo momento è quarto in classifica. Empoli batte Padova 4-0, il Vicenza vince 1-0 a Frosinone. Il big match, Lecce-Brescia finisce 2-2, Mantova batte Gallipoli 1-0, Modena-Albinoleffe 1-1, il Grosseto vince 4-3 a Salerno. Lecce 64, Brescia 59, Cesena 58, Cittadella-Grosseto 57, Sassuolo 55, Torino 54, ma stasera c'è Torino-Cesena. Nel campionato di rugby c'era un big match, Giacomo Bagnasco, com'è finito? Buon pomeriggio Carlo, ciao. Buon pomeriggio a tutti. A Treviso, Benetton Treviso, Montepaschi Viadana, due squadre appaiate in testa alla classifica, ha vinto il Benetton 39-33, quindi Benetton adesso da solo al primo posto, una sfida particolare fra due squadre che di fatto l'anno prossimo non parteciperanno più al campionato italiano, ma parteciperanno alla Celtic League. Per fortuna è stata una gran bella partita, quindi un segnale incoraggiante per queste due nostre future rappresentanti nel supercampionato celtico. Gli altri risultati: Femici Z Rovigo plus Valore Gran Parma 20-15, Rovigo quinto successo consecutivo e terzo posto consolidato, Futura Park Roma Casinò Venezia 19 pari, Consec Cavalieri Prato Petrarca Padova 24-19, Banca Monte Parma Ferla L'Aquila 20-19. Era la 15ª giornata, 3 giornate quindi al termine della stagione regolare, e poi l'ultima finale del Super 10 con questa formula, finale che ormai sembra definitivo, si disputerà il 29 maggio all'Arena di Milano, quindi una chiusura quantomeno suggestiva, all'altezza di quello che è stato questo campionato, all'altezza dell'evento prima di tuffarci in una nuova era. Grazie a Giacomo Bagnasco, con cui chiudiamo questo programma. Domani riapriamo la seduta alle 17, da 17 alle 19 come sempre. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buona serata a tutti.